Storiacce di Raffaella Calandra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buongiorno! Mi scusi? Pensa di metterci molto? Cosa? Per caso volete voi questa pizza? A questo punto presentiamoci. Il posto più popolare per i suicidi nella notte più popolare per i suicidi. Avrei dovuto immaginare che avrei trovato la fila. C'è chi ha provato anche col sorriso a raccontare la disperazione di chi decide di voler morire, di chi sale sulla terrazza di un grattacielo per lasciarsi poi andare e spegnere tutto, spegnere la sofferenza, l'angoscia, la mancanza di futuro e uscire da un inferno di dolore. Non a caso uso queste parole. Queste sono le parole usate da DJ Fabo nella sua lettera testamento prima di bere il veleno che l'ha fatto addormentare per sempre. Perché se c'è chi, come i protagonisti di questa commedia, possono arrivare con i loro piedi su quel tetto, altri, come Fabo, restano prigionieri della gabbia del loro corpo e del loro inferno di dolore. E allora, visto che in Italia non esiste una legge sul biotestamento né tantomeno sul suicidio assistito, ciascuno fa come ritiene. In un Far West, chi ha qualcuno evoca ai tempi precedenti la legge sull'aborto o ancora la fecondazione eterologo, ha ancora il riconoscimento delle coppie omosessuali, storie cioè di diritti rivendicate. E allora da qui che in punta di piedi parte questa puntata di Storiacce. Io sono morta il 13 di aprile. Il chirurgo che mi aveva operato mi disse: signora, l'abbiamo aperta e chiusa. Non c'è niente da fare. È talmente devastante che non abbiamo potuto fare niente. Ne parlai con un altro medico che disse: io non posso aiutarti, però c'è la possibilità che tu lo possa fare andando in Svizzera. Io non voglio più soffrire. Le storie sono tutte simili e diverse allo stesso tempo. Sono storie di diagnosi senza scampo, di malattie degenerative o di incidenti che fanno precipitare negli abissi vite fino ad allora gioiose, piene di futuro e speranza. Ma se tutte le famiglie sono felici, come scriveva Tolstoi, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. La storia di Anna Karenina non ha nulla a che vedere con le storie di cui stiamo parlando qui a Storiacce, ma mai, come nel fine vita, soprattutto ora in Italia, è proprio vero che ogni famiglia e ogni persona affronta a modo suo il buio in cui si trova e mai come ora, se si decide di farla finita, ciascuno cerca una propria via d'uscita. Succede anche questo davanti all'assenza di leggi. Succede che alcuni, diciamolo chiaramente, salgono su una terrazza e scelgono l'opzione forse più brutale e tutti gli altri, quelli che fisicamente non possono o che non vogliono farlo in questo modo, vanno all'estero e pagano migliaia di euro o portano avanti lunghissime battaglie giudiziarie dagli esiti più vari o ancora, nel silenzio di stanze dolorosamente complici, trovano da sé il modo. Nulla come una decisione del genere è disperatamente personale, ma nessun malato deve sentirsi abbandonato, ha ricordato anche il capo dello Stato. E di fatto però è questo quello che succede. Piano piano la malattia, essendo degenerativa, ha progredito e ha cominciato a togliermi parte dell'autonomia. Tutto questo naturalmente ha influito anche in famiglia, per cui col marito sono cominciati gli attriti, tanto che io un bel giorno, esasperata, ho anche tentato il suicidio e purtroppo mi è andata male. Dopo aver fatto tutte le terapie del mondo possibili, non ottenevo niente e la degenerazione proseguiva. Ho cercato una via, chiamiamola di scampo. Mario Monicelli, si è dovuto buttare dal quarto piano dell'ospedale. Lucio Magri è morto in un altro modo. Storie diverse, per lo più raccolte dall'associazione Coscioni, di persone che non ci sono più e che hanno scelto quando ciò dovesse avvenire, il più delle volte all'estero, perché qui in Italia, nonostante le promesse fatte anni fa quando un'altra vicenda toccò l'intero paese, quella di Eluana Englaro, nessuna norma ancora regola con chiarezza il fine vita. E questo è stato il principale atto d'accusa con cui Fabo si è congedato dall'Italia. È veramente una vergogna che nessuno ne farà mettere Italia per colore di metodo, fate una rete che è dedicata alle persone che soffrono. Che brividi che trasmettono queste parole. E sono proprio questi brividi che le parole di Fabo, come prima le storie di Piera e Damiana, rendono l'atto d'accusa verso la politica ancora più forte. Più forte anche perché l'ennesimo, e che si ripete ben 8 anni dopo quello corale che si levò subito dopo la morte di Eluana Englaro. Ma se ci pensate un po', è lo stesso tipo di impegno della politica sollecitato da chi va in Spagna per compiere la fondazione eterologa, negli Stati Uniti per sposarsi o in Svizzera, appunto, per morire. Tutti quanti all'epoca invocavano un intervento normativo. A distanza di 8 anni non mi pare che sia successo granché. Filippo La Manna, ora presidente del Tribunale di Novara, è il magistrato che da giudice della Corte d'Appello di Milano sbloccò la lunga battaglia giudiziaria di Beppino Englaro per interrompere idratazione e nutrizione alla figlia Eluana, rimasta per anni in coma vegetativo dopo un terribile incidente. Storia simile, ma dai contorni giuridici diversi rispetto a quelli di Fabo. Una storia, quella di Eluana, che tra le prime però sollevò il dibattito sul fine vita. Un dibattito su cui la presidente La Manna accetta ora di tornare a parlare con storiacce, interrompendo la sua riservatezza, perché l'assenza della politica, ci dice, e il far west che ne consegue fa orrore. Certamente ci ho ripensato, ma non solo questi giorni, ci penso da quel momento. Il grande travaglio che c'è è un travaglio profondissimo, si vive prima di prendere una decisione. Però una volta prese, anche perché il nostro mestiere, diciamo, al conforto della propria coscienza, quando si prendono con serenità, si prendono con uno spirito di servizio, la coscienza è tranquilla. Ancora una volta sarà la magistratura a dover affrontare un tema su cui invece la politica tarda a pronunciarsi, preferisce non pronunciarsi e preferisce rimandare. Non solo non è giusto, è qualche cosa che fa orrore. Il motivo per cui la politica non si è ancora occupata di questa problematica è fin troppo evidente. Il non provvedere è già una scelta, perché relega la tutela dei singoli ai riposti e silenziosi, segreti, riservati ambiti delle cliniche, dove una morte assistita spesso è praticata, ma in silenzio. Oppure nelle zone così controverse delle aule di giustizia, perché le norme esistono, ma sono norme di carattere generalissimo, sono norme sparpagliate nel sistema, implicano una ricostruzione che, essendo soggetta alla interpretazione di ciascun giudice, può essere variabile, e poi soprattutto implica percorsi processuali lunghi. La magistratura in questi casi esercita un ruolo, anche non volendo, di supplenza. Ecco, Presidente, ha toccato vari punti cruciali. Ha detto è fin troppo chiara la ragione per cui la politica non si pronuncia, e cioè? È la vittoria di chi non vuole che ci sia una norma, perché non essendoci norme chiare, norme precise, la tutela diventa sempre più limitata. Quella che si affida ai tribunali con gli anni di durata dei processi. Ricordiamo che il caso di Eluana è durato 17 anni. Lei ha ricordato appunto la necessità di avere delle norme che tutelino chi sia capace come chi non sia più capace. Le storie di Eluana e di Fabo, lo abbiamo già ricordato, sono storie diverse da tanti punti di vista. C'è un grande spartiacque tra chi può e chi non può fare qualche cosa che abbia a che vedere con la decisione di terminare la propria vita. Chi può si suicida, può avere bisogno di qualcuno che lo aiuti a soffrire di meno, ma è una decisione che può realizzare da solo. C'è invece chi non ha la materiale e fisica possibilità di farlo, anche se volesse farlo. È qui che deve intervenire la norma e deve decidere se consentirlo o non consentirlo e in quali modalità farlo. Qui io però mi fermo, perché mentre nel caso di Eluana riguardava il rifiuto di trattamento, cioè il diritto di rifiutare le cure, che da noi è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, che in una famosa sentenza redatta da Casavola nel 1990 era un diritto costruito come libertà individuale. Ma l'altra ipotesi viene invece definita in America come right to die, cioè diritto di morire, più difficile in realtà da affrontare. Perché? Perché investe una materia che non è vuota di norme come l'altra, ma è piena di norme, perché ci sono norme che puniscono l'aiuto al suicidio, il suicidio assistito, l'omicidio del consenziente, eccetera, eccetera. Quindi, ed infatti è quello a cui ora potrebbe andare incontro Marco Cappato. Sì, anche se altri precedenti, mi ricordo quello là famoso di Monza, la signora Moroni. Sì, certo. Fu poi assolto, anche il medico Riccio che intervenne per il caso Welby. Esatto. Fu poi assolto. Cioè, non mi preoccuperei tanto delle conseguenze penali per chi ha cercato di porre all'attenzione il problema. Mi preoccuperei della soluzione del problema, perché è un problema che riguarda il dolore delle persone, riguarda la libertà di tutti noi, e bisogna stare attenti a evitare che l'ideologia, il fanatismo incidano creando ostruzionismi che fermano l'avanzata della nostra civiltà, del nostro vivere comune in modo più civile possibile. Sul fine vita in Italia si è creata una situazione come quella che precedeva l'introduzione della legge sull'aborto, quando di nascosto aghi da uncinetto e mammane di ogni genere risolvevano il problema alle donne. Perché se alcuni casi arrivano alle cronache, molti altri si consumano in silenzio. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Good Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Storiacce. Nicky Vendola e il suo compagno sono andati in Canada per tornare col figlio, perché lì la pratica della maternità surrogata è ormai riconosciuta. Per lo più in Spagna, invece, va chi conta di diventare genitore attraverso l'eterologa. Compra poi un biglietto aereo per Parigi o New York chi vuole sposarsi con una persona dello stesso sesso. E in questa geografia di viaggi e di diritti da reclamare, sempre più battuta è anche la strada verso la Svizzera e verso Zurigo, soprattutto, dove una clinica sta accogliendo i malati terminali d'Italia che al costo di 10.000 euro decidono di uscire dalla loro gabbia di dolore, per usare ancora una volta le parole di Fabo. Come lui e dopo di lui, altri stanno percorrendo la stessa strada, anche con l'aiuto di Marco Cappato, radicale dell'associazione Luca Coscioni, ora finito indagato per aver aiutato e accompagnato in Svizzera a compiere quel suicidio assistito che in Italia è proibito. Ho reso spontanee dichiarazioni di quello che ho fatto in questi giorni e di quello che farò. Ho fatto verbalizzare di avere sabato mattina caricato Fabiano Antoniani e averlo personalmente accompagnato guidando la sua macchina fino alla Svizzera, e lì poi ha ottenuto l'assistenza medica alla morte volontaria nelle modalità che sapete, attraverso l'autosomministrazione del farmaco. Ho anche precisato che ci sono altre persone che stiamo aiutando, altre persone che sono in attesa. In particolare ho chiarito che ci sono due persone che hanno già un appuntamento in Svizzera, due persone che aiuterò in un caso economicamente, in un caso materialmente, e che questa mia attività e questa nostra attività continuerà fino a quando non ci sarà finalmente una risposta. Quello che noi chiediamo non è un po' di tolleranza per poter fare all'italiana. Noi vorremmo poter fare come si fa in uno stato di diritto, con la forza esplicita della legge. altre persone che hanno scelto di uscire dalla loro gabbia di un corpo che non risponde più o che diventa solo motivo di dolori insopportabili. E allora lo strazio peggiore può essere rinchiuso anche nelle piccole cose, come il prurito incessante. Mi fude la testa, io non riesco a grattarmi, è diventato matto. Ma vi sentite anche voi, come me, investiti dal dolore, ascoltando queste parole? Dopo aver preso già 8 anni fa l'impegno ad occuparsene, ora la politica torna a discutere del fine vita. Ma come chiarisce il premier Paolo Gentiloni, in Italia il DDL verte sul testamento biologico, nulla a che vedere, insomma, su quanto fatto in Svizzera da Fabo. Beh, innanzitutto mi sento naturalmente colpito dalla vicenda, come credo tutti i nostri concittadini. E in secondo luogo direi che il governo guarda con rispetto alla confronto parlamentare che c'è, che credo sia doveroso e che interpella le coscienze dei singoli parlamentari. Voglio solo aggiungere che la legge su cui la Camera è chiamata a pronunciarsi e a confrontarsi riguarda, come sapete, il cosiddetto testamento biologico e non l'eutanasia. Il vuoto della politica fa orrore. Ha usato parole insolitamente nette e dure, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, Filippo Lamanna, presidente del Tribunale di Novara, che da giudice della Corte d'Appello di Milano sbloccò il caso Eluana. Parole così dure che ci fanno però ancora di più capire il travaglio, anche personale, oltre che giuridico, che dovette attraversare prima di quella sentenza che ritorna di continuo nei suoi pensieri. Quante notte non ha dormito lei prima di prendere la decisione sulla vicenda Englaro? Un mesetto. Era ben chiaro a tutti quanti voi le portate di quella sentenza, anche futura? Un travaglio doloroso che ha cercato di ripercorrere il dolore dei familiari, che ha però trovato, come le dicevo prima, ha trovato una compensazione successiva nella consapevolezza di aver fatto fare un piccolo passettino, piccolissimo, alla civiltà del nostro paese. In assenza di norme chiare o, al contrario, come lei diceva, con un proliferare di norme che possono dire una cosa e il contrario, succede che poi anche con iter giudiziari analoghi gli esiti possono essere opposti, cioè che tutto può cambiare a seconda anche delle sensibilità del giudice che affronta il singolo caso. Certamente, questo è il vero problema, che nasce dalla incertezza nella formulazione delle norme e dal numero limitato di norme dedicate ad hoc a un determinato argomento. Io le citavo gli articoli della Costituzione, ma questa è una materia che dovrebbe essere regolata da una legge ordinaria. Si sa che la norma è soggetta a interpretazioni, e le interpretazioni vengono date da uomini, gli uomini hanno cervelli diversi, sensibilità diverse e quindi questo si può tradurre in una facile controvertibilità delle soluzioni. Ecco perché ci vogliono norme chiare, semplici, dedicate specificamente a un singolo argomento, in maniera da eliminare quanto più possibile sia i dubbi sia gli ostacoli procedimentali per realizzare un determinato tipo di risultato. La magistratura in Italia è più volte chiamata a svolgere dei ruoli di supplenza davanti a vuoti normativi in alcuni settori, però forse in questi temi, quelli che hanno a che fare con i temi etici, quelli che hanno a che fare col fine vita, ma lo è stato all'inizio anche forse per tutti i temi riguardanti la procreazione, è stato in un certo senso così, cioè in qualche modo la strada è stata avviata e aperta, a cominciare da sentenze pioniere. Si pensava già 8 anni fa che la vostra sentenza sarebbe potuta essere un po' viatico per una norma. Insomma, lei trova che in questi settori in qualche modo ci sia sempre un input che parta prima dalla magistratura, dalle aule di un tribunale, che piuttosto che dagli scranni del Parlamento? Risponderei dicendo sì, purtroppo. Sì, perché è indubitabile che la magistratura abbia in questi ultimi decenni fatto da filtro della coscienza civile, interpretando l'evolversi del mondo e attraverso questa interpretazione di quello che accade attorno a noi è riuscita ad offrire un'interpretazione anche delle norme esistenti in senso evolutivo. Purtroppo perché la priorità dell'intervento avrebbe dovuto essere quella che parte dalla iniziativa politica, perché la politica, come dice il termine stesso, è l'arte di governare sociale e deve precorrere i tempi. Troppo forte se facessi un paragone a proposito di questi temi e del vuoto normativo ai tempi precedenti la legge sull'aborto. Cioè, in qualche modo, l'assenza di norme fa sì che poi ciascuno un po' prenda provvedimenti a modo proprio, come sì, ritiene. No. Diciamo che ci sono delle analogie evidentissime, lei è bravissima nel coglierle, è molto intuitiva e le coglie benissimo. Tra l'altro le dirò che è un paradosso, ma io ricordo che anche le norme in materia di testamento biologico avevano avuto dei precedenti nella politica degli anni 70 da parte di quegli stessi promotori che avevano proposto il divorzio. Tema tra i più difficili e dolorosi questa sera, Storiacce, ma abbiamo deciso di raccontare anche attraverso questa prospettiva la questione del fine vita, perché oltre agli aspetti religiosi ed etici che toccano le coscienze di ciascuno di noi, c'è anche un grande tema di diritti e di libertà e riguarda le vite di tutti noi. Non a caso poche questioni come queste sono state profondamente scandagliate già dai filosofi antichi, come ci racconta allora, come sempre a questo punto, il nostro Giorgio Giordano, voce delle mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Il saggio, secondo ragione, si esporrà alla morte nel caso sia vittima di menomazioni o di malattie inguaribili. È la frase di un pensatore vissuto 3 secoli prima di Cristo, il filosofo stoico Crisippo. Una frase che dimostra come gli antichi affrontassero molto seriamente il tema dell'eutanasia. Eutanasia, essa stessa parola greca, scriveva un poeta ai tempi di Alessandro Magno: di tutto quello che gli uomini possono chiedere agli dèi, la cosa migliore è una dolce morte. Eutanasia, appunto. I filosofi parlavano di uscita ragionata dalla vita, di un suicidio, insomma, ben ponderato, frutto non di insania, ma di saggezza, un suicidio da praticare per esempio per sottrarsi alla crudeltà di un tiranno, ma anche più in generale nel momento in cui, scriveva Cicerone, restare in vita appare ormai contro natura. Certo, Ippocrate nel suo giuramento diceva che il medico non deve, neppure se richiesto, somministrare a un paziente farmaci che ne provocano la morte. Era un'epoca però, quella di Ippocrate, in cui non esistevano strumenti per prolungare artificialmente l'esistenza di quei corpi che le anime hanno già abbandonato, e sempre Crisippo sosteneva, d'altra parte, che è legittimo rinunciare a vivere quando, citiamo letteralmente, una malattia prolungata impedisce all'anima di usare il corpo come suo strumento. Sono gli stessi problemi che ci si pongono oggi, e chissà se i nostri politici nell'affrontarli saranno all'altezza delle severe meditazioni degli antichi. E voi che cosa pensate del fine vita? Che cosa pensate di questo doloroso tema? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Se volete farci avere le vostre testimonianze, scriveteci una mail a storiacce@radio24.it. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.